Mi piace il mio paese adesso. Non credo che tornerei a viverci. Però sento che se oggi io sono qui, qui dove sono, è anche perché sono partito da lì. E voi? Dove siete? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Lunedì 13 settembre, sono le 16.08, questa è Radio 24 e io sono qui. È stato un lungo fine settimana questo. È stato un lungo fine settimana passato per lo più al paese, cioè al mio paese, che è il paese dove abitano i miei genitori. È stato lungo anche perché c'è stata una bagarre su Facebook, sul profilo Facebook che è Matteo Caccia, io sono qui, a proposito di quello che è accaduto venerdì, quando la puntata si è chiusa. La puntata si è chiusa con la telefonata di un tizio che sosteneva, poi magari era finto. Ragazzi, sapete la vecchia regola del vero finto? Non tutto quello che raccontano è vero. Ecco, magari era finto. Però ha chiamato questo Bolo, mi pare si chiamasse, che sosteneva di essere un ladro, perché avevo proprio chiesto, avevo raccontato di quando da ragazzino avevo rubato un fumetto. Si è scatenata una bagarre sul profilo, per cui ho ricevuto delle minacce di denuncia a mio carico addirittura. Dicevano, se non lo denunci sei anche tu colpevole, devi dire chi è. È arrivato un sms che sosteneva di essere un carabiniere di una stazione dei carabinieri di non so dove, in provincia di Milano. È tutto a posto, ragazzi. Non l'abbiamo più risentito, abbiamo provato a richiamarlo, ma evidentemente il numero era criptato. Comunque è tutto a posto. Piccola città, bastardo posto, appena nato ti compresi, ho fuffato che in tre mesi. Guccini, c'è sempre quella roba lì che ti sembra di essere in un'osteria. In 4-5. A bere Barbera, cosa beve lui? Poi sono a Stemio pure. Lambrusco, che Barbera. È una piccola città il paese dove io sono nato. Si chiama Romentino. Romentino, l'ho raccontato prima a Vittoria Mussini. Me la fai? Me la tiri un po' su questo pezzo? Mi viene una malinconia infinita. Bro. Ecco, Guccini c'ha queste due robe. La prima che ti fa sentire in un'osteria con altre 5 che beve Lambrusca, e l'altra che ti viene una malinconia infinita. Basta, grazie Pietro. Dicevo prima a Vittoria Mussini che il mio paese, come moltissimi dei paesi dei paesi italiani, è un paese di meno di 5.000 abitanti. Prima guardavo delle statistiche, in Italia ci sono più di 8.000 comuni e 6.000 hanno sotto i 5.000 abitanti, quindi sono molti di più i paesi con i comuni con meno di 5.000 abitanti, però poi mi pare che la ridistribuzione della popolazione sia pari più o meno, un po' meno Bolini di fa di sicuro la testa, non lo sappiamo, però chiaramente qualcuno lo saprà, no? Ci sarà, Barisoni lo saprà, lui più tardi glielo chiediamo. Comunque, come questi 6.000 comuni che hanno meno di 5.000 abitanti, è un paese che ha proprio tutte le caratteristiche dei paesi. Ad esempio, sapete il personaggio del paese? Non so se vi siete accorti, ma è difficile in città, nelle città, vedere il matto del paese, perché o è proprio diventato matto, poveraccio, e quindi è internato, oppure è ai bordi di qualche strada. Però il matto, per esempio, il matto che va in giro con la bicicletta, a Romentino c'è il matto che va in giro con la bicicletta e la radiolina, è presente, e canta e passa per la strada. Quello lo vedi nel paese, perché il paese in un modo o nell'altro protegge questi personaggi. E appunto Romentino è proprio uno di quei paesi lì. E ho trascorso questo fine settimana in cui ho ripreso contatto con questa realtà, perché era da un po' che non ci tornavo. E poi ieri, tornando in treno a Milano, mi è capitato in mano questo giornale, che è Repubblica semplicemente, in cui si parla di un paese che è in provincia di Caltanissetta. È un paese di... originariamente sopra i 5.000, tipo 7.000 abitanti, però è un paese dove da ieri tutti se ne sono andati. La storia è questa qua. In questo paese, che si chiama appunto Riesi, il 12 settembre si festeggia la Madonna Santissima della Catena. La si festeggia perché, secondo la leggenda, questa Madonna spezzò i ceppi di 3 condannati a morte. In questo paese, molto banalmente, come accade in moltissimi paesi, soprattutto poi del sud Italia, l'85% della popolazione è emigrata. è migrata o al nord o in Europa. Ci sono stati vari flussi di emigrazione, chiaramente i tipici flussi migratori degli anni 50 in avanti. Prima c'erano delle miniere di zolfo e quindi quelle tenevano impiegati gran parte della popolazione. Nel 70 la miniera è finita, nel 94 è arrivato un ex emigrante che sosteneva di essere un amico di Benetton e voleva aprire un centro tessile. Sono nate altre fabbriche che però poi di lì a breve sono fallite. Quindi fondamentalmente in estate arrivano, come capita spesso, arrivano tutti gli emigranti che tornano a passare le vacanze nel paese e poi dopo il 12 settembre, cioè ieri, se ne vanno e il paese ritorna ad essere vuoto. Però c'è questo desiderio di tornare. Io credo che questa sia una cosa che solo quelli che sono nati in un paese possono sapere, nel senso che già una città di 80.000 abitanti non è la stessa roba. Cioè, se tu sei nato in un paese e sei cresciuto lì e quindi le strade erano strade tranquille quando potevi girare ed eri un bambino, sembrava di stare in un cortile gigante, quando poi te ne vai e pensi a quel paese lì, c'è qualcosa di malinconico e soprattutto c'è qualcosa che tutte le cose belle del tuo paese vengono fuori quando tu ti sei allontanato. Questo è esattamente quello che mi è successo ieri, l'ho realizzato ieri a 35 anni. 800240024 oppure 349-238-6666. Oggi io vorrei sentire, innanzitutto sarebbe fantastico se ci fosse qualcuno di Riesi, di questo paesino in provincia di Caltanissetta che è emigrato e che magari era giù quest'estate ed è ripartito, non proprio ieri quando il paese ha chiuso per ferie, ma magari un altro giorno. Comunque se c'è qualcuno di Riesi all'ascolto mi piacerebbe sapere che paese è. Se no, tutti quelli che hanno un sentimento di affetto nei confronti del proprio paese, io proprio oggi vorrei sentire una sorta di dichiarazione d'amore nei confronti dei paesi che sono spesso anonimi e non hanno moltissimo da raccontare, però in realtà c'hanno un piatto tipico, ad esempio, oppure c'hanno una lingua particolare. Già tra il paese dove abito io e quello di fianco si parlano due dialetti completamente diversi. C'hanno i personaggi, c'hanno il pazzo che va in giro in bicicletta con la radio, c'hanno degli eventi, no? Sai che c'è la festa del paese, c'è sempre qualcosa di particolare. 800240024 oppure 349-238-6666. Io sono molto lusingato dal fatto che quelli che guardano il profilo Facebook pensano che io possa scrivere cose come questa. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. Veramente, sono molto lusingato dal fatto che voi pensate che io possa scrivere o anche solo pensare come Cesare Pavese. Non è così, però se non avete letto La Luna e i Falò, fatelo, perché lì tra i vari temi c'è esattamente questo, c'è il ritorno al paese. Poi prima, parlandone con Tiziano, mi ha dato anche un'altra citazione di un altro scrittore che non riguarda in realtà un paese, riguarda una città, però racconta che cosa voglia dire pensare al luogo da cui si arriva. La mia casa è Istanbul, dice Orhan Pamuk. In ogni altro posto non sono a casa. Tuttavia resisto di fronte al concetto di esilio. La casa è il luogo dove vivi le tue prime impressioni, apprendi la tua lingua e la tua cultura, dove hai la tua prima percezione del mondo. È il luogo verso il quale provi un senso di appartenenza. È il luogo dove è tua madre sempre pronta ad accoglierti e a proteggerti. Anzi, in un certo senso è tua madre. Ho cominciato a pensare che cosa sia la casa quando sono venuto per la prima volta a New York nell'85. Riflettevo allora, come adesso, che la lingua è una delle cose che puoi portarti ovunque, così come la tua cultura. 800240024 oppure 349-238-6666. Solo persone che sono andate via dal loro paese, che vivono in una città o in un altro paese, comunque che non sia il loro, che ogni tanto ci tornano, che spesso hanno malinconia e che hanno voglia di raccontarmi quanto è bello il loro paese e perché. E anche banalmente dirmi il nome del paese, perché io fino a una certa età, lo ammetto, mi vergognavo di dire Romentino. Dove abiti? Ma provincia di Novara, vicino, sai dove c'è il Lago Maggiore? Ecco, no, proprio i nomi dei paesi hanno un loro significato. 800240024 oppure 349-238-6666. Questa domenica ho fatto quello che spesso si fa nelle domeniche come questa. Sono tornato al paese per andare a pranzo dai miei. Dopo averlo raccontato a voi prima e poi agli amici, volevo spiegare meglio ai miei genitori la mia scelta. Parlo del dire sempre la verità. Boh, che poi non lo so, forse sto esagerando, Cioè, forse non è il caso che io vada in giro come una specie di santone che ha scoperto la verità assoluta a comunicare al mondo le mie scelte. D'altra parte, non voglio farmi prete. Non voglio andare a vivere in una caverna. Ho solo deciso di non dire più bugie. più che altro, sì, è più che altro una forma di avviso ai naviganti, che forse è un po' codardo, però mi sento più tranquillo se prima di iniziare a raccontare tutte le cose che penso senza filtro almeno l'ho annunciato al mondo o alle persone che mi stanno vicine. Quindi venerdì dopo la trasmissione sono andato in stazione e ho preso il treno per Novara. Il regionale parte da Porta Garibaldi e si fa tutte le stazioni, e se dico tutte intendo tutte: Milano Lancetti, Milano Villa Pizzone, Milano Certosa, Rho Fiera Milano, Rho Pregnana Milanese, Vittuone Arluno, Corbetta Santo Stefano Ticino, Magenta, Trecate. Appena fuori Milano è salito un ragazzo con in mano una scatola di scarpe. Ha tolto il coperchio e ha iniziato a mostrare a tutti i contenuti. C'era dentro un coniglio color ambra, con il pelo lungo e la testa piccola. Non si capiva se voleva solo mostrare a tutti il suo animaletto, oppure era un modo come un altro per chiedere qualche spicciolo. Era ovviamente un modo come un altro per chiedere qualche spicciolo. Le signore che tornavano a casa dall'ufficio, nonostante la fatica e la bile rovesciata della giornata di lavoro, si sono fatte intenerire e gli hanno dato qualche euro per le carote del coniglio. Dopo essersi fatto tutto il giro degli scompartimenti, si è seduto davanti a me, con sto animaletto sulle gambe. Io gli ho sorriso. Lui mi ha chiesto un euro per le carote. Io gli ho detto di no, perché sapevo che i soldi non erano per le carote. Lui non ha detto niente e si è messo a guardare fuori dal finestrino. E io ho fatto la stessa cosa. Mi piace tornare al mio paese. Mi piace farlo durante i cambi di stagione. In aprile i contadini riempiono le risaie d'acqua, la campagna sembra un lago a scacchi. A fine estate invece il riso è talmente giallo che è quasi bianco, mentre il Gran Turco è alto quanto il primo piano di una casa. E quando ero bambino mi ricordo avevo paura all'idea di avventurarmici dentro, perché nascosto al centro del campo ci poteva essere qualcosa di strano che ti appariva all'improvviso, spostando una pianta carica di pannocchie. Mentre sia io sia il ragazzo del coniglio guardavamo i campi di riso, è arrivato il controllore. Il ragazzo non aveva né il biglietto né i documenti e si è messo a parlare al controllore come se fossero amici da sempre, dicendogli: ma non ti ricordi, io sono il ragazzo di coniglio, non ho soldi, devo andare a trovare mia madre all'ospedale. Il controllore ha scritto un verbale che sapeva già nessuno avrebbe mai pagato. Fuori dal finestrino ho visto la scritta Trecate, allora ho preso il mio zaino e sono andato verso l'uscita. E mentre scendevo mi domandavo se la mamma del ragazzo col coniglio era davvero all'ospedale oppure no. Al pranzo della domenica c'erano tutti: mio papà, mia mamma, mia nonna Lina, mia sorella Tiziana e il Lele, suo futuro marito. L'argomento principale di questi ultimi mesi, fortunatamente, è il loro matrimonio. Dico fortunatamente perché altrimenti il tema sarebbe: Matteo, non puoi vivere in questo modo. Questa è l'espressione che mia mamma usa da quando ho venduto tutto l'anno scorso. Durante la cena, quindi, abbiamo parlato dei preparativi per le nozze, del menù, dei confetti, del battello che porterà gli invitati sull'isola del Lago Maggiore dove si svolgerà la cerimonia. Si è riso, si è parlato di come sarà bella quella giornata. Poi mia nonna mi ha guardato e mi ha detto: e tu? Io ho detto che stavo bene, che non possedere niente è un'esperienza che tutti dovrebbero provare e che avevo deciso che avrei sempre detto la verità. Il Lele si è messo a ridere, ha detto che era una splendida idea, che lui non ne sarebbe mai stato capace, però era proprio una bella idea. C'è stato un attimo di silenzio, poi mi ha guardato e mi ha detto: ma scusa, quindi hai intenzione di dire la verità sempre, in qualsiasi frangente? Io gli ho detto di sì. Allora lui mi ha risposto: ad esempio, dai, ti piacciono le mie scarpe? Io le ho guardate. Erano quelle scarpe da ginnastica un po' a punta, molto costose, con un H disegnata sul lato. Gli ho detto che le trovavo brutte, ineleganti e che non capivo come si potessero spendere 200 euro per un paio di scarpe come quelle. Lui mi ha corretto dicendo che di euro ne costavano 300 e ci siamo messi a ridere. Ecco, in quel momento lì è successo qualcosa. Non saprei dire esattamente cosa, però è stata la prima volta che ho visto cambiare l'atteggiamento delle persone che conoscevo nei miei confronti. Improvvisamente la mia famiglia ha iniziato a guardarmi con un occhio diverso, come se io fossi qualcosa a metà strada tra un pazzo e un illuminato. Mia sorella mi ha preso un po' in giro dicendomi che se non mi inventavo ogni anno qualcosa di nuovo non ero contento. Poi mia mamma ha servito il tiramisù e non se ne è parlato più. You're wasting your life. quando la sera sono uscito di casa, mi sentivo come quando da ragazzo si usciva dall'atrio della scuola a metà giugno, alla fine della scuola, dopo aver controllato i tabelloni con gli esiti finali. Che lì c'eri arrivato con un po' di timore, pensando che un termine piuttosto che un altro a fianco al tuo nome avrebbe potuto cambiare la tua vita. O così ti sembrava. Poi invece, dopo aver letto la parola promosso, tirami un sospiro infinito. E uscivi da scuola sentendo l'estate che ti arrivava addosso. L'estate che sarebbe stata la più bella di sempre, l'estate in cui avresti fatto cose nuove, eccitanti, ti saresti divertito e poi innamorato. E non sarebbe finita mai. E poi te ne tornavi a casa in bicicletta, per le strade del tuo paese, facendo giri che non avevi mai fatto, per allungare il percorso e goderti quel sapore di libertà senza senso. E senza sapere che quell'estate sarebbe scivolata via, in un attimo, come tutte quelle che sarebbero arrivate dopo di lei, una dopo l'altra. Le estati passate a Romentino sono quelle che mi ricordo meglio. Mi piace il mio paese adesso. Non credo che tornerei a viverci, però sento che se oggi io sono qui, qui dove sono, è anche perché sono partito da lì. C'è qualcosa di struggente nell'osservare le vie del proprio paese. Come se le case, gli angoli, gli incroci tra le strade, i palazzi, io avessi cominciato a vederli realmente solo da adulto, non prima di una decina d'anni fa. Come se quelle strade fossero la misura della mia consapevolezza, come se segnassero il limite dell'innocenza. Se dovessi disegnare la mia vita su una mappa e tracciare con delle linee i miei spostamenti, alla fine tutti tornerebbero lì, in quel paese di 5.000 abitanti in provincia di Novara, in mezzo alle risaie e al grano turco, dove sembra che niente possa accadere se non fuori da lì, dove da bambino tutto il paese sembra un enorme cortile. E la sera t'addormenti sentendo in lontananza le auto che scorrono sull'autostrada. E di casa telefono. E di telefono casa. E ti telefono casa. Vuole chiamare qualche persona. E ti telefono casa. E ti telefono casa. Bonini, devi avvisarmi che metti sta roba, perché all'inizio ho sentito un verso strano e non capivo che credo fosse Pietro la Corte che aveva una sincope di là. Beh, effettivamente lui era lontano da casa, poveraccio. 16:34, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e io sono qui. Ogni tanto vi racconto dei pezzi di libri che mi capita di incontrare per la strada. Cioè, per il modo di dire, ovviamente, per la strada mi capita di incontrare e di leggiucchiare. Non tutti, lo ammetto, non tutti. In questo caso però ce n'è uno che parla proprio di questo argomento, o meglio, ne parla in maniera tangenziale. La maggior parte di chi viaggia per tornare indietro. Questa è una citazione. Chi fugge deliberatamente, chi se ne va in cerca di una nuova vita, porta con sé il calore della casa che lo ha cresciuto, dei luoghi, degli oggetti, degli odori, dei suoni familiari. Ricominciare in un altro luogo richiede un lungo processo di colonizzazione dello spazio ospite, di addomesticamento del nuovo. Questo è un pezzo di un libro che è in uscita, probabilmente non è ancora uscito, mi pare, che esce in settimana, mi diceva Tiziano, e che ha scritto proprio Tiziano Bonini, e quindi mi sembrava giusto parlarne, non solo perché è suo, ma perché racconta di questo cosa qua, e lo tocca in maniera trasversale, perché appunto Tiziano, il libro si chiama Così lontano, così vicino. I riferimenti sono comunque sul profilo Facebook del programma. Mazza che marchè, questa è proprio super marchettona, Tiz, e a lei di caffè pagato. Anche pranzi alla mensa, direi. I prossimi due librettini della mensa sono da pagare da te. Però è interessante il fatto che appunto di fatto un mezzo come la radio serva proprio a quello, no? Al fatto che anche se uno in giro ascolta un programma che gli piace o che non gli piace, anche come spesso capita, e in qualche modo si sente a casa. 800240024 oppure 349-238-6666. I messaggi che parlano dei paesi sono già arrivati. Abito in un piccolo paese, si chiama Pove del Grappa ed è vicino a Bassano. Nel mio paese abbiamo appena celebrato le feste quinquennali in onore del crocifisso. 620 paesani agghindati da personaggi biblici. Ma ci sono 620 personaggi biblici nella Bibbia? Oppure c'erano dei doppioni? Niente, nessuno di là che sapesse. No? Sì, esatto. Il mio paese ha dei biscotti buonissimi, i torcetti di Lanzo Torinese, che ho sempre fatto amare a tutti i colleghi dei lavori in Lombardia e in Svizzera. Alberto da Como. Ciao Matteo, nei paesi quasi mai ci sono dei gay, Paolo. Ma non è vero. Cioè, magari devi scavare un po' di più. Magari non vanno in giro in bicicletta con la radio accesa. Però, se, insomma, ci sono. Tu pensa, anche se pare di no, anche in Iran pare che ci siano. 800240024, perché abbiamo trovato qualcuno che è di vicino Riesi, mi pare. È Giancarlo. Pronto, Giancarlo? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Oggi tiro avanti, insomma. Senti, dimmi, tu vivi a Roma, giusto? Vedo scritto sì, esatto. Qua. Però esatto. sei di dove esattamente? Mazzarino. Mazzarino o Mezzarino? No, Mazzarino, il cardinale, Mazzarino. Ok. Buono sapersi che c'è un cardinale che si chiama Mazzarino. Tu lavori... Si chiamava. Ah, ok, ok. Senti, e tu sei vicino a questo paesino di cui parlavo prima, che si chiama Riesi, giusto? Esatto. Prima di 15.000, quando vivevo io, adesso saranno 7.000, forse anche meno. E invece il tuo paese ha una sorte simile, oppure... Sì, appunto, il mio paese era di 15.000. Ah, il tuo. Si è dimezzato ai livelli quasi di Riesi. E Riesi invece è esattamente così come racconta l'articolo del giornale, oppure... Ma Riesi, diciamo che almeno il mio paese era un tantinello più bello dal punto di vista storico, più chiese. Riesi era un'ex colonia penale, quindi anticamente... Quindi c'è un carcere? C'era un carcere e poi, diciamo, da colonia penale è diventato paese. Tu cosa fai nella vita, Giancarlo? Allora, faccio l'agente in attività finanziaria, una sorta di agente di commercio per le banche. Lavoro. Cioè, scusa, fammi capire esattamente cosa fa la gente. I mutui. Fai i mutui? Sì, diciamo. Cerco di farli, ecco. E come va? Siamo in crescita? Qui sentivo una redazione economica l'altro giorno, siamo in crescita, sta salendo. Ma personalmente direi che la sera non posso, non so se posso fare i nomi di aziende, penso di no. No, direi però, di no. Però comunque la mia banca va bene, mi fa vivere. Mi piace perché lo dici quasi sottovoce, come se fossi imbarazzato, Giancarlo. Mi sono imbarazzato. Diciamo che guadagno discretamente bene. Sono bravo. Contento del mio lavoro perché mi piace relazionarmi con le persone. Ma dove sei tu adesso? In macchina, in ufficio, a casa? Adesso sono rientrato, ero prima in macchina quando mi ha chiamato il tuo collega. Adesso sono rientrato a casa perché lavoro molto anche da casa col computer. Senti, invece perché sei andato via da Mazzarino? Perché Mazzarino non offriva chiaramente molte opportunità dal punto di vista lavorativo e... Ci torni? Ah, periodicamente sì, ci torno perché mio padre è defunto lì. Ah, e quindi torni per andare al cimitero? Anche per andare a trovarlo e comunque non nego che quando sarò vecchio, anziano, magari ci tornerò per viverci perché la realtà di Roma non offre tanto. Questo è quello, che... Come la realtà di Roma non offre tanto? Non offre tanto dal punto di vista degli anziani. Per gli anziani non è una vita, penso, agevole per chi vive a Roma. Diciamo che l'obiettivo è sempre poi in là con gli anni e tornare al paese. Dimmi una cosa che accade a Mezzarino che bisogna andare a vedere. Ma per esempio io sentivo parlare di questa Madonna della Catena, no? Sì, sì. E mi ricordo che ai miei tempi c'erano, magari non io perché ancora ero fanciullo troppo, però c'era una sorta di processione di pellegrinaggio verso Riesi a piedi da Mazzarino, quindi la gente faceva pure 15 chilometri a piedi per in occasione del rito appunto della Madonna della Catena. Ah, ok, quindi è importante questa Madonna della Catena. Sì, accoglie, diciamo, un po' di pellegrini, ma un po' come tutte le feste religiose della zona. Chiaro. Noi accoglievamo loro. Accoglievano voi. Giancarlo, grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Andiamo a Napoli da Loretta. Pronto, Loretta? Pronto Napoli? Pronto, buonanotte. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Grazie, anche a te. Stai bene? Sì, insomma, un po' raffreddata, ma si va avanti. Quanti anni hai, Loretta? Sembri una bambina. 34. Ah, no, perché sono raffreddata, non perché questa sia la mia voce normale. Senti, tu di dove sei, Loretta? Allora, io sono proprio di Napoli. Mm-hmm. Però raccontavo prima che a Natale andiamo nel casolare dei miei nonni, che è in una frazione di un paesino. Che si chiama? Macini, il posto si chiama Macini, è in provincia di Ameglio, che è vicino Roccamontina, che è in provincia di Caserta. Quindi è un posto che se uno lo sai, scusa, non ci arriverai. Non credo proprio. Dimmi solo, è in provincia di Amelia? Allora, è Ameglio il paese. La frazione dove vado io si chiama Macini. Ed è in provincia di Caserta. Provincia di Caserta. Quante volte ci vai, Loretta? a Natale sicuramente siamo là, là tutto il periodo, insomma, natalizio, su tutti i parenti, così, e poi vabbè qualche volta magari a Pasqua se capita o per qualche gita così con gli amici. Loretta, riguardati e riprenditi dal raffreddore, grazie mille, buona giornata. Un bacio ciao, un bacio anche a te, ciao. Milano, Maria Teresa, pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao Maria Teresa, tu di dove sei? Io sono di Galatone, vicino a Gallipoli, a Lecce, nel Salento. Galatone? Sì. Quanti abitanti c'ha? 16.000. Ah, beh, grandicello. Sì, è un paese abbastanza grande. E cosa accade a Galatone? Molte cose belle, il Salento ormai è diventata una meta molto conosciuta. Adesso è un po' però Tamorre e Taranta, devo dire la verità. Che a me... Ma non è solo quello il Salento. Però adesso un pochettino che se sbaglia a capitarci in estate, vai con la Taranta. È proprio questo che volevo dire, il Salento va conosciuto anche nelle altre stagioni, perché offre tantissime cose ma belle. Ma dimmi del tuo paese esattamente, Maria Teresa. Soprattutto i primi di maggio. C'è la festa del patrono, che è anche per noi, come quello di vicino Bassano, è il Santissimo Crocifisso. E in questa è il 3 di maggio, al 2 al 4 di maggio. E mai vi vestite da personaggi biblici? No, però c'è una rievocazione che non avviene tutti gli anni, ma cade ogni 4 anni, una rievocazione storica. Il cosiddetto carro di Sant'Elena rievoca il fatto che Sant'Elena, tornando dalla Terra Santa per portare la croce a Roma, si fermasse dalle nostre parti, e quindi anche quella è una rievocazione storica. Ci sono dei cittadini che si vestono da legionari con i cavalli. Comunque gente che si traveste, allegorico. È una tradizione molto antica che si perpetua ogni 4 anni. Maria Teresa, scusami, tu quando sei venuta su a 18 anni? No, allora io ho vissuto un po' dappertutto e quasi in Italia. A 18 anni sono stata a Firenze, adesso sono da 6 anni a Milano. Ok, ok. Cosa fai? Insegno. Senti, visto che insegni, ma nella Bibbia ci sono 620 personaggi? Ma io non ne dubito, credo che leggendola tutta si possano trovare 620 personaggi. Ciao Maria Teresa, grazie, buona giornata. Grazie a te, veniteci a trovare. Cioè, ma era della Proloco lei probabilmente. No, non proprio. Ciao Maria Teresa. Lo amo profondamente il mio paese. Ciao, grazie. Ciao. Anch'io. Abdallah, da Milano, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ciao Matteo. Ciao Abdallah, puoi abbassare la radio? Io sono un po' lontano, vengo dalla Tunisia, la mia città natale si chiama Grombaglia, è una città di gemellaggio con una Cisterna di Latina, perché ci sono immigrati italiani negli anni 40 e anni 50, erano tutti là. Cioè ci sono degli italiani là? Sì, ci sono fino adesso, poi adesso sono più italiani che hanno aperto le fabbriche e viene. Abdallah, mi ripeti come si chiama la città, che scusa non lo capisco. Grombaglia, 38 chilometri dai capitali tunisi e 18 da Hammamet. Quante volte ci vai? Solito vado sempre 2-3 volte all'anno, ma quest'anno mi è capitato di andare 7 volte e ci vado ancora il 24 di questo mese. Senti, e cosa fai qua in Italia, Abdallah? Faccio l'autista, sono da 24 anni che sono immigrato qui in Italia. E mi sento più tunisino che italiano, praticamente, che mi manca molto la Tunisia, perché è cambiata molto di tutti gli aspetti. È cambiata cosa? L'Italia o la Tunisia, scusami? La Tunisia, più moderna, più aperta, più... Ma quindi tu avresti intenzione di tornarci? Se sincero non vedo l'ora. Non vedo l'ora, sono bloccato con i figli che sono nati qui, più grandi 19 anni e mezzo e più piccola 3 anni. Cos'è che ti manca di più del tuo paese, Abdallah? Mi manca la terra natale, mi manca la mamma, mi mancano gli amici che l'ho abbandonato da più di 24 anni, mi manca il Giassomino, Scusami, invece, tornando a 25 anni fa, quando sei arrivato in Italia, dove sei arrivato esattamente quando sei arrivato in Italia? Sono arrivato in provincia di Catania, un paese che si chiama Paternò. Ma come ci sei arrivato? Sono arrivato al ragazzino, in ricerca di lavoro. No, l'ho capito, ma proprio fisicamente come sei arrivato? Su una barca, su un aereo? No, sulla nave Tirrenia, che non c'era il visto d'ingresso allora e non c'era, partito così a casaccio. Chiaro. Ho trovato la fortuna, un po' di fortuna in Sicilia, sono rimasto 3 anni e poi da lì sono spostato a Piacenza città e fino adesso sono rimasto 20 anni che sono a Piacenza. E mi dici invece qual è la cosa che ti ha più spaventato dell'Italia quando sei arrivato, invece la cosa che ti è piaciuta di più di questo paese? La cosa che mi è piaciuta di più è la cultura di questo paese, la storia di questo paese, che non lo sapevo fra i cartagini di Romagna, che prima l'ho studiato un po', poi l'ho vista. E invece la cosa che ti ha spaventato? No, di spavento niente, sinceramente, non mi sono spaventato niente, solo un po' di ignoranza, ma non dico tutti, non posso mica fare da un erbo un fascio. Abdallah, ti ringrazio molto e fai buon ritorno quando ritornerai al tuo paese. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Sono le 16.46, siamo in un ritardo terribile. Io ringrazio Vittoria Mussini, Pietro Lacorte, Alessandro Genovesi e Tiziano Bonini. Sono le 16.46 minuti, questa è la D24, io sono Matteo Caccia e oggi sono stato qui. Ho letto due giornali, ho registrato due pezzi di diario, ho scritto mezza puntata del programma. Ho sentito un amico che non sentivo da mesi, ho passeggiato per mezz'ora fino a qui, alla radio. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?